da mega Hz, dove non fa l'HF, non fa l'HF quello che uso, che stavo usando poco fa. Io ho l'811H che però, ti ripeto, aveva quei problemi che dei trimmerini dietro, dei potenziometri che mi portano gli SVR a più di 3, anche regolandoli, facendo cose con anche da 10 watt della radio fino ai 60 che può pilotare lui, mi danno problemi. Però momentaneamente, Marco, guarda, ho una scottatura di quelle brutte. Se ti dico solo che quella radio lì è... Domani ti mando le foto. Domani, guarda, la prendo e vado in garage, ti mando le foto e mi dici è impossibile, ma è così. Fronte anteriore è rotto, spaccato. Porca miseria, quella non ci voleva, non ci voleva, perché poi era veramente un'apparecchiatura che ci tenevi troppo, e quelle cose lì insomma fanno veramente male. Allora, io ho provato a contattare anche questi rinominati di Facebook che mi devono dare delle risposte per, solo per il frontale, perché lì funzionante, però la parte destra dello schermo spaccata. Per farti capire, non è una cosa che ne compromette il funzionamento, però alla parte destra dello schermo, dove c'è il secondo WFO, che è proprio rotta, fino alla seconda manopola più piccola. Sì, tu intendi la mascherina, dai. Esatto. L'alimentatore l'ho dovuto risaldare il primo avvolgimento, il primo gruppo gli ho dovuto risaldare io, e il condensatore era tutto strappato, era tutto fatto. Io ti ho mandato la foto così, però quando l'ho aperta era un disastro, si è proprio dissaldata da sotto, cioè si è strappata da sotto, dal piano, ha strappato le viti, ha strappato tutto l'anello che tiene il condensatore, quello grande, elettrolitico del primario. Sì, perché come ha tirato, ovviamente si è portato via anche un pezzo di circuito, insomma, lì della dove c'è il circuito sulla bacchelite, insomma, sicuramente questo è successo. Vediamo un po' questo cavolo di cosa, se a volte si trovano questi diciamo quei frontalini, non costerebbe neanche molto, 70-80 euro dovrebbero costare, e magari quella ce l'ha, un po' di pazienza, perché ci vuole un po' di pazienza di smontare tutto la cover lì, insomma, però si riesce, dai, con molta pazienza. Allora, gli ho tirato un porco Dio che secondo me se gli è sceso guai, gli è venuto un coccolone. Ah beh, quello sicuro. Se l'ha preso e basta. No, però così non si lavora. Meno male che non ha problemi allo schermo, diciamo al cristallo lungo. Però al frontale rotto, quindi adesso vediamo un po', me l'hanno proposto per 90-100 euro più spedizione, se mi arriva proverò con un amico a provare a cambiarlo, a togliere tutti i pomellini a coso e lo faremo, adesso vediamo un po' se mi dà la conferma, perché non è disponibile, però ho detto sicuramente riuscirò a trovartelo, magari da qualcuno dismesso, ma quello è tutto da vedere, quello è tutto da vedere. Però per il funzionamento è a posto, eh. È a posto, l'ho anche accesa, l'ho provata, magari guarda, domani notte la prendiamo, la proviamo e niente, la, così la senti, e ciccia, però porca miseria, baita, boh. Io sono un po' scocciato da questa cosa qua, Sì, sì, beh, ma da fastidio, Da fastidio assolutamente, puoi vederla così quando ce l'hai davanti, insomma, ti va a venire solo rabbia. Ma lui poi per il lavoro, per lui cosa ha sostituito o ha solo fatto delle tarature? No, ha sostituito roba in alimentazione. Allora, l'alimentatore ha sostituito il un condensatore, poi ha sostituito quel transistor che c'è nella scheda del secondario, per farti capire dove, in pratica, dove attaccano, dove va la connessione dei due rossi, il bianco e il marrone. Di lì ha sostituito, che c'è un transistor, poi ha cambiato un elettrolitico, c'ho la scheda di quello che, del lavoro che ha fatto, mi ha mandato tutto l'elenco della roba sostituita, e la taratura, vabbè, perché poi cambiando questa roba qua, i due transistor posteriori, dove c'è il dissipatore, ha cambiato la ventola, perché ha detto che con la ventola non era a posto, mentre nel trasmettitore sono stati sostituiti dei diodi, e è stato fatto un lavoro in alimentazione, perché l'alimentazione andava un po' a calare, i finali erano a posto, diciamo una taratura, almeno per quello che c'è scritto. Poi ho tutto lui rilascia quella scheda su tutti i lavori che sono stati fatti. Del resto sono uscite quasi mezza piotta, siamo a 500 quasi, 470. Sì, sì, fra tutte e due sicuramente. Peccato che non è stato curato l'imballo, ecco, questa è stata una pecca molto grossa. Il fatto è che la miseria non si lava le mani. E non c'è niente da fare, si lava le mani, una volta che è spedita si lava le mani. Puttana laiva, si lava le mani, io strangolerei a tutte, guarda, c'ho un nervoso, strangolerei a tutti. Ma così lo fanno tutti, anche quando fai un acquisto, ti dicono o mandi tu il corriere, io te mando. Non mi assumo nessuna responsabilità, capito? Anche quando acquisti, indipendentemente quando lo mandi in assistenza, che poi te lo mandano loro. Una volta che esce dal laboratorio o dal negozio, bello mio, non sono più responsabili loro, capito? Se ne lavano le mani, giustamente, come hai detto tu. Sì, ma non è una spedizione da che il valore è 10 euro, neanche 50, neanche 100. Se tu mi dici ci vogliono 20 euro in più, 30 euro in più, no? Per fare un pacco assicurato che ci risarciscono per i danni, tieni i soldi, io non ti sto facendo problemi per i soldi, io però voglio la roba a posto, tu mi devi dare la roba a posto. Perché? Perché poi ti separa il tratto di nave, ti separa il volo, ti separa quello, ti separa quell'altro, e non ti puoi compromettere, perché altrimenti sarebbe stato a compromettermi, sarebbe stato a strangolare e a prendere la schifa a faccia, come bambini. Non lo so, eppure c'è gente, si trova gente in Siria, Io un po' di tempo fa stavo facendo un acquisto e insomma il valore, come dici tu, era abbastanza cospicuo, e mi ha detto guarda, non te lo mando perché sarebbe a rovinarlo. È stata veramente, mi ha colpito questa, cioè un negozio che ti dice non te lo mando perché sarebbe a rovinarlo. Sì, ma infatti sono pochi. Allora, io quando avevo preso l'ICR 7000, avevamo fatto un pacco assicurato, tu dirai, sì, ma il pacco assicurato non ti rimborsano tutto, però è stato lui a dire, da questi soldi qua, visto che mi hai fatto un bel, visto che sei stato puntuale di parola, ti faccio un pacco assicurato a conto mio, invece di guadagnarmi le 400 euro me ne guadagno le 3,70, le 3,60 e ti faccio un pacco assicurato. È la verità, mi ha fatto un pacco. Io ti devo dire, quando mi è arrivato l'ICR 7000, il ricevitore era a prova di bomba, ma veramente la prova di bomba, era imballato bene bene bene ed era un pacco assicurato con TNT. No, bugia, ti ho detto una bugia, con Hertz. Ed è arrivato con loro, è arrivato dentro una cassa di legno, è arrivato perfetto, e la spedizione era costata 38 euro, gli era costata il tuo signore. Infatti poi avevo detto, ma le devo dare qualcosa? Ho detto no, non mi dai nulla, l'importante è che la radio arriva tranquilla, perché io con la radio ci tengo. Sei stata una persona onesta, mi hai pagato, perché io volevo fare il bonifico dopo 2 giorni, e gli ho detto me la segno. Ho detto sì, ma me l'ho contattato intanto. Io ho detto guardi, se aspetta le faccio il bonifico istantaneo. Infatti mi ha aspettato, le ho fatto il bonifico istantaneo e mi ha fatto veramente un imballo da manuale, bello, e non c'erano problemi. Questo qua ha risparmiato anche sul nastro per l'imballaggio, capito? Sì, sì, ma guarda, quando trovi gente così, veramente fa piacere. Ma guarda, ti posso dire, io sono rimasto sempre un po' perplesso, no? Quando c'è gente che ordina apparecchiature o lineari dall'America, no? E dice guarda, ne stavamo parlando anche da poco con uno, appunto con uno M, ha detto io ho preso uno Swan dalla, un altro amplificatore valvolare, lì che era un pacco enorme, un pacco uno dentro l'altro, pieno di carta, di roba di per ammorbidire. È arrivato dall'America questo qua, chissà quante volte l'hanno preso in mano e uno e l'altro, cioè, eppure è arrivato integro. Sì, ma io ti dirò, guarda Marco, io ti dirò che a volte le spedizioni vengono, diciamo, vengono più riservate dai paesi esteri che da per esempio fare da Milano a Sardegna, da Milano a Sicilia, perché non lo so, una volta che tu da là li metti nel container, loro viaggiano e sono ferme, qua stanno a fare sede, hub, e di nuovo Cagliari, e di nuovo qua, e di nuovo di là. Io avevo venduto un baracchinetto, un 2009, e va fatto da Cagliari, mi segui, ascoltami, da Cagliari a Bologna, da Bologna era venuto al nord Sardegna, capito? Ma che problema c'è? Ma quali sono i problemi che tu devi fare? Perché deve passare tramite un hub, ma fai un hub in Sardegna, non che tu una radio che fa da Cagliari a Elmas, da Elmas a Bologna, hub di Bologna delle poste, e poi dalle poste prende e va a Sassari e da Sassari a destinazione. Sono passate 3 settimane prima di consegnarmi questo maledetto Superstar 3009. Sì, no, fanno tante di quei giri, guarda, che non ti immagini, da un deposito all'altro, poi da un furgone all'altro, passa in 100 mani, e quindi per quello ti potrebbe essere veramente un pacco a prova di bomba, se vuoi che arrivi qualcosa intero, se no veramente. Ma infatti quando ti avevo detto, avevo raccontato, no? L'ultimo acquisto che ho fatto di quel microfono che ti ho detto, che quando ho visto il pacco che era dentro una scatola di scarpe, ho detto, ui, mamma mia, vabbè che altro fanno, sono 50 euro, non è rotto, come sono sempre 50 euro, però quando sono cifre alte ovviamente ci si addrizzano i capelli. Beh, è arrivato integro, e aveva messo dentro la scatola, aveva imbottito un po', però è arrivato perfetto, ti avevo mandato anche la foto, e tu hai, una volta che hanno, non vuol dire, vedi, come succedono le cose. Pure è arrivato bello, bello, bello, bello integro, insomma, a volte, ed è lui che fa pacchi, scatole più una dentro l'altra, poi in bottiglie, di tutto e di più, perché anche quello lì si era avvolto magari con quel, come si chiama, quello lì con i pallini, no? Magari fatto 4, 5, 6, 7, 8, 10 giri anche. Certo, il pacco diventava molto più voluminoso, molto più pesante, sicuramente, però, cioè, non come dici tu, preferirei pagare 10 euro in più, anche 20 euro in più, però che mi arriva il prodotto integro, hai capito? Invece così, cazzo, poi è peggio che peggio, Eh sì, perché quando fanno queste cose qua che non ti avvisano sono una massa di bastardi, scusando la parola, per carità. Da poco mia moglie ha ordinato roba prima di Natale, addobbi natalizi, dai, presi da Shein, e ha comprato una sorta di coso per la bambina, così, tipo vestitino da fattina, no? Come si fa per i bambini. E il corriere furbacchione cosa ha fatto? Non c'ero né io perché stavo lavorando, non c'era né lì perché stavo lavorando, e l'ha appeso al cancello. Ma secondo te io con quei due mostri che ho qua a casa, cosa è successo? Che ci avevamo tutta la roba sparsa di lì davanti al cancello, tutta la roba morsicata, tutta la roba. Tu dirai, erano mi sa 15-20 euro di roba, 15-20 euro di prodotti, e porca miseria, non ci fai caso, nei 20 euro noi ce la lavoriamo e non è che me le regalano, attenzione, non è che non ci fai caso in base a quella, alle cifre molto più alte. Però i cani, e cosa fai? Picchi i cani? I cani non si picchiano, il cane ha fatto il suo lavoro, il cane ha preso, hanno buttato roba, hanno messo roba nel cancello, e lui curioso e soprattutto istinto di guardia va ad attaccare. Non è che lo posso picchiare, io i cani non li picchio, assolutamente. Non li tocco per altre cose, figurati se li tocco quando fanno il suo lavoro, ma assolutamente no. Comunque c'è stata questa cosa qua, e poi prendi, fai il reclamo e ti dicono, ma lei doveva mettere una sorta di casella per di cassetta per ricevere il pacco. Ho detto, vabbè, la prima ultima volta anche per voi. Sì, ma è così, ma vabbè, ma i corrieri se ne sbattono le palle, capito? Arrivano, loro sono sempre in fretta, buttano lì, scaricano e se ne vanno, soprattutto poi quando non c'è da firmare, da fare niente, o se no l'unica cosa sarebbe, in questo caso, diciamo in contrassegno, hai capito? Allora arriva, mi controllo la merce, è arrivata integra, ti pago, se no non ti pago, hai capito? Prova a vedere se spediscono il contrassegno, a vedere se te ne mandano di roba aggiustata. Prova. No, appunto, perché non si prendono le responsabilità, capito? Però dico, la cosa corretta sarebbe quello, no? Cioè io devo controllare, soprattutto quando se compro, no? Lascia stare uno che fa assistenza, non ti può dare anche questa agevolazione, perché dici, a me, io una volta che vieni in laboratorio, me la porti tu e te la ritiri tu, capito? Nel nostro caso è molto molto complicato, perché devi uscire fuori, capito? Devi andare in continente, devi fare un viaggio, il traghetto, in aereo, e allora buonanotte al sito, capito? Non ne vale la candela. Dai, se fossi che dici, prendo la macchina e mi faccio 100 km, 200 e vado lì, allora sarebbe diverso, ma da fare così, hai capito? Perché un sacco di gente quando lo porta oppure lo va a prendere anche usato da casa di qualcuno, va direttamente e se lo prende, se lo vede se lo prende se lo porta a casa, sei sicuro che ti arriva intero. Però d'altronde noi siamo, da quel lato lì siamo penalizzati per una cosa e per l'altra. Ma secondo te, ma anche se sarei, se sarei stato, cosa ti posso dire, a Roma, a Napoli, ma secondo te non l'avrei portato in macchina, avrei messo il gasolio e l'avrei portato. Ma a noi per lavoro ci arriva roba, guarda, ci arriva attrezzatura da tutta Europa e non, arriva roba senza danno perché sono imballi fatti a dovere, però quando una cosa non fa piacere, aspetta, non è che non fa piacere farla, quando una cosa non si vuol più fare oppure hai personale che non fa bene il suo lavoro, lo devi castigare, capito? Perché io con quella persona non ho mai avuto problemi, eppure gli ho mandato roba a riparare, sempre trovato bene, eppure ti avevo anche raccontato che una mia radio era sparita per un mese, pure essere impegnato anche personalmente, però sta perdendo colpi e io non ci metto la mano nel fuoco mai così, perché per me la verità si era impegnato per farmi riavere, è andato personalmente per farmi recuperare la radio, personalmente. Però il fatto che non si risponda più alle segnalazioni, non abbia fatto una cosa del genere, a me mi delude tantissimo. Infatti io dopo questa avventura ho detto, se mi si dovesse rompere qualche radio, la prendo, non la regalo, la porto fuori, la metto sull'incudine, gli do un colpo di mazza e la butto via. Davvero, ma lo faccio, guarda Marco, se io dico una cosa è così, se mi si dovesse rompere qualche cosa che c'è da spedire fuori da fare, io la metto sull'incudine, c'ho un'incudine bella io qua fuori a casa, ho una mazza da 4,8 kg, 80, il manico pesa 120 grammi. 180 grammi, comunque 5,1 kg è compresa di manico, gli do un colpo e la spezzo in due, lo faccio perché l'ho fatto con altra roba e lo faccio e non spedisco più niente, quando non avrò più nulla mi compro qualcosa di nuovo, basta, finito. Almeno la soddisfazione che no, te la sei rotta tu, non te la rotta nessuno. Ma scusa, ma l'imballo che tu gli avevi mandato tramite quello là, c'è stato quel discorso che mi avevi fatto, no? Tramite quella persona. Ma tu l'imballo che hai mandato te l'hanno restituita con l'imballo originale o ti hanno cambiato anche l'imballo interrogativo? No, la scatola era la stessa, ma l'imballo non era più lui, perché io avevo messo quella sorta di plastica gommosa resistente. Infatti quando ho messo il tracking di spedizione mio verso di lui, mi ha dato il tracking che era arrivato a destinazione, l'ho subito chiamato, ho detto ma guardi come no, è arrivato perfetto, è un imballo fatto con criterio, va bene, quindi le farò sapere, mi ha detto. Quindi era un lavoro da fare in 2 settimane, ma sono passate le feste senza contare trasverse, che quello lì ce l'aveva 2 mesi e mezzo in mano comunque, però quello non era stato spedito, quello l'avevano portato a mano. Non è arrivato con la stessa roba, perché io l'ho messo, oppure sì, no, gli ho fatto lo scatola, gli ho fatto proprio raccomandato, il pulibolo invece mi è arrivato solo col polistirolo, solo, capito? Totalmente sbriciolato anche. Sì, non hanno rimesso l'imballo originale e quindi è logico. Poi è entrato in mano qualche animale che magari gli è anche caduto per terra, che aveva le mani come l'uovo, e quindi è successo il patatrac, insomma, ecco. Sì, ho capito, Marco, ma ci può stare che ti cade, no? Perché tutti siamo umani, ma porca miseria, ma non è che uno condanna chi ti cade. Io non ti condanno perché ti cade, ma tutti e due, porco Giuda. Sì, è proprio vero, cioè forse uno cazza quello là, non dico, ma non uno, due addirittura, della stessa persona pure. Che puttana la Madonna. Ti fa porco Giuda, ti fanno uguale, forse lo vedo io perché poi non mi faccio sentire. Lo so che ti fa cadere le palle in terra, ti ne fa passare la voglia, perché la rabbia c'è e passa, perché passa poi col tempo, però non sono belle cose, ecco. Poi lo vedi, non ti fai sentire, non fai, perché poi io parlo male, poi io inizio a bestemmiare male, poi me ne pento, perché poi chiedo perdono, ma porco, no, poi ti escono, poi a me mi escono e scendono tutti, da giù da su scendono tutti, e meglio di no. Lo so, ti capisco assolutamente. Va bene, dai, questa sera ne abbiamo fatto, dai, se no inutile intanto, come si dice, piangere sull'arte del stato. Purtroppo è successo, era meglio che non succedeva sicuramente, però parliamo, è che ci possiamo fare, meglio, cioè, speriamo, insomma, auguriamoci il meglio in altre cose, almeno su di salute in altre cose, quelle di poi. Il rimedio magari prima o poi si trova, e vediamo, dai. D'accordo, ci sentiamo allora, dai, ti auguro la buonanotte, io me ne vado a Nanna da fare ancora una figurina, mi preparo qualcosa per domani e poi Nanna, insomma, dai. Tanto è quasi ora. Comunque grazie delle quattro chiacchiere e vediamo poi domani, se arriva una certa ora magari. Probabile che ci sentiamo, ma se no alle prossime occasioni, ovviamente, con piacere. Alle prossime, ciao. Sì, Marco, scusa delle cose, parole, però vedi, perché poi io non dice, non ti fai sentire, non ti fai, è perché poi io prendo sclero e succede così a me. Ma hai ragione, dai, ci sentiamo, buonanotte. Via. Ciao Marco, buonanotte. Comunque dai, mi trovi dove ruggi, già, dai, sono lì. Va bene, dai. Ciao Marco, buonanotte. Ciao, buonanotte.